Sì, il tentativo è appunto quello di lavorare su un duplice piano. E in primo luogo, diciamo, presentare il pensiero politico di Negri, come un po' nella natura della collana che ospita questo saggio che è appunto Essentials e che si propone di presentare appunto il pensiero politico di autori fondamentali della contemporaneità attraverso cinque parole chiave che compongono poi i cinque capitoli e che sono quelli che anche tu menzionavi. Quindi, diciamo, un piano di ricostruzione del pensiero di Negri, di riflessione teorica però sullo statuto della sua elaborazione, nel senso che il secondo livello, diciamo così, è quello di contribuire, oltre che alla diffusione del pensiero di Negri, anche alla discussione rispetto alle sue proposte politico-teoriche. E questo perché Negri, insomma, è uno tra gli autori marxisti più dibattuti, discussi degli ultimi 3 decenni e non solo, conosciuto, eletto in tutto il mondo. E quindi l'intenzione è anche quella, per chi già evidentemente conosca il pensiero di Negri e si voglia però misurare con alcune delle critiche che gli sono state rivolte, a volte in modo pretestuoso, a volte meno. Chi appunto conosca già il pensiero di Negri può leggere questo libro e comunque trovare, credo e spero, alcuni spunti di riflessione e di discussione rispetto a quella che è l'innovazione del pensiero di Negri. La tesi un po' di fondo, diciamo così, è appunto che Negri abbia contribuito in modo fondamentale ad innovare il marxismo, ma non solo il marxismo, e più in generale a ridefinire alcune delle categorie, dei concetti politici più rilevanti dell'età moderna e contemporanea, che sono appunto quelle che compongono i cinque capitoli brevi di questo libro e che sono le cinque parole chiave intorno a cui ho deciso di articolare un po' tutto il ragionamento. Esatto, le cinque parole chiave che appunto sono Costituzione, democrazia, impero, moltitudine e comunismo. Insomma, immagino non sia stato semplice selezionarne cinque e selezionare proprio queste. Come è avvenuto, ecco, il processo? No, non è stato semplice. Io ho iniziato a lavorare un po' sul pensiero di Negri poco più di una decina d'anni fa. Nel fare questo lavoro, insomma, ho ripreso un po' tutta la sua produzione, che è veramente molto varia. Inizia alla fine degli anni 50, primi anni 60, nell'ambito della filosofia del diritto, per poi arrivare alle cose, diciamo, del nuovo millennio. Mi sembrava che queste cinque parole chiave, a partire da Costituzione, e c'è un motivo anche per cui è Costituzione e non, per esempio, Stato, riuscissero, insomma, a dar conto sia dello sviluppo diacronico del pensiero di Negri, quindi dagli anni 60, alla fine degli anni 50, fino al nuovo millennio, e al tempo stesso, dentro questa ricostruzione, riuscissero a far emergere sia quella che è appunto la sua originalità, sua innovazione, e le questioni che prima menzionavo rispetto appunto ai dibattiti che queste sue innovazioni hanno suscitato. Quindi la scelta, diciamo, è stata determinata dal fatto che mi pare che queste parole chiave riescano a tenere insieme quei due piani di cui parlavo prima e ad articolare un piano sincronico, un piano diacronico di sviluppo del pensiero di Negri sull'arco temporale, un piano sincronico al tempo stesso teorico, diciamo, di confronto con il pensiero dell'autore. Elia, ti volevo chiedere anche, come dire, da dove inizia il tuo studio sulla filosofia di Toni Negri e quando ti sei appassionato? Ma io conoscevo, insomma, le cose di Negri dai primissimi anni 2000, insomma, perché circolavano ovviamente Certo. all'interno degli ambiti di movimento che attraverso, insomma, da poco dopo il 2001. Quindi il nome di Negri ovviamente risuonava e era conosciuto, era letto, era discusso. Poco più di una decina d'anni fa ho iniziato un lavoro un po' più, come dire, attento, nell'ambito prima di una tesi di laurea in storia del pensiero politico. Voleva appunto ricostruire il dibattito scatenato soprattutto nel marxismo da Impero. Quindi l'idea era di vedere come Impero si inseriva all'interno dei dibattiti sulla globalizzazione, dentro il marxismo, ma non solo, e mettere un po' il suo pensiero, le categorie proposte da Impero di Negri, che viene pubblicato nel 2000, prima edizione, quella inglese, metterlo un po' a confronto con tutte le interpretazioni che avevano suscitato, tutte le critiche che avevano suscitato, per capire un po' anche, diciamo, da un lato appunto l'ampiezza di quel dibattito, mettere, insomma, provare a mettere una serie di punti fermi e testare un po' anche la tenuta di quelle categorie. E quindi lì è iniziato appunto un lavoro un po' più sistematico, che poi negli anni mi ha accompagnato rispetto ad altri aspetti del suo pensiero, quindi il suo ruolo all'interno del marxismo contemporaneo, il suo confronto con altre tradizioni, altri autori marxisti e non marxisti, il suo confronto con i classici, su tutti ovviamente Spinoza, ma anche Cartesio, e poi da quel lavoro, che poi era diventato un libro che era stato pubblicato nel 2019, in mezzo a altri lavori, diciamo, di più corto respiro, fino poi ad arrivare in questo momento a un tentativo appunto di mettere insieme alcune cose e offrire a chi legge questo libro, che spero sia in qualche modo semplice da seguire, per quanto comunque il tema sia, diciamo, storico e teorico-politico, e provare un po' a restituire appunto a chi volesse avvicinarsi e a chi volesse continuare a discutere di Negri questo agile libro, ecco. Lo presenterai qui a Bologna, Elia, da qualche parte? Sì, è in programma una presentazione questo mercoledì 31 di gennaio alla libreria Modu dalle 19, con me a discutere il libro ci saranno Ida Dominiani, Sandro Mezzadra e Mario Piccinini. L'appuntamento alle 19, la libreria Modu, Infoshop in via Mascarella 24B a Bologna, mercoledì 31 gennaio.